et un jeune juge en bois brut, voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endendinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogory, bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogory! Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogory! Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogory! La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Vers le juge au moment suprême, criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le cou. Garogory! Nettuno in terza casa. La terza casa dell'oroscopo è quella che parla della vostra capacità di dialogo e comunicazione. In una coppia, la comunicazione può avvenire fondamentalmente su due livelli, uno relativo ai sentimenti e alle emozioni e l'altro relativo alle questioni più prosaiche, ma non per questo meno importanti. Nettuno in terza casa è bellissimo e disastroso al contempo, perché quando si tratta di esprimere sentimenti ed emozioni può regalarvi un'intesa meravigliosa e profonda, ma quando si tratta di comunicarvi esperienze più contingenti non vi sostiene affatto. Ti amo da morire è una frase che può essere sostituita benissimo da uno sguardo, da un gesto, a volte più eloquenti di mille parole. Caro, hai pagato tu la bolletta? Invece no, non è sostituibile, quindi ogni tanto le parole sforzatevi di usarle. Alcatraz è un'isola situata nella baia di San Francisco, in California, negli Stati Uniti, famosa perché è sede dell'omonimo carcere di massima sicurezza. L'isola di Alcatraz, che è una parola che viene dallo spagnolo e significa pellicano, è così chiamata perché appunto vi erano molti pellicani sull'isola, ed è sempre soprannominata The Rock, la roccia, poiché un'alta percentuale dell'isola è costituita da roccia. Pellicano perché c'erano pellicani, la roccia perché ci stanno le rocce. È stata anche soprannominata The Bastion, la fortezza, perché sembrava impossibile ipotizzare una fuga. Il carcere di Alcatraz è comunemente noto per l'estrema rigidità con cui erano trattati i detenuti. Chi veniva mandato ad Alcatraz era solitamente considerato estremamente pericoloso o aveva già tentato la fuga da altre prigioni. I carcerati erano costretti a scontare la loro pena in una cella singola dalle dimensioni particolarmente ridotte. Le mancanze disciplinari venivano punite con una reclusione al buio e al freddo nella cella di isolamento. A differenza di altre carceri, la possibilità di lavorare non era concessa a tutti, ma era un diritto che si doveva guadagnare con la disciplina, rispettando le regole della prigione. Va sottolineato però che per la totale impossibilità di controllare e gestire i prigionieri al momento del pranzo, il cibo era nel complesso sempre di ottima qualità. Vabbè. A differenza di quello di altre carceri statunitensi, si era infatti pensato che per un vitto migliore avrebbero contribuito a evitare disordini al momento della distribuzione del cibo. Furbi. Un'eventuale possibile rivolta nel refettorio avrebbe potuto, in effetti, significare la morte sicura del personale di guardia a causa del gas che sarebbe stato sprigionato per sedarla durante i pasti. Tutti i prigionieri venivano radunati in un solo stanzone, sotto la sorveglianza di appena 2 o 3 secondini. Molto poco furbo. In linea di massima, nonostante le regole severissime, le 23 ore passate in cella per i non lavoratori, 19 per chi invece lavorava, ad Alcatraz si cercò sempre di non creare il malcontento tra i detenuti, a parte metterli in cella di isolamento al freddo e al buio. Come invece spesso veniva nelle altre carceri, a causa soprattutto dei soprusi nei confronti dei prigionieri da parte del personale addetto alla sorveglianza. La scrittrice inglese J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, si è probabilmente ispirata ad Alcatraz per creare la prigione di Azkaban. Yeah. ¿Quién sabe? Allora, non era il caldo il problema, questa cosa l'abbiamo stabilita. Comunque. Siamo riusciti finalmente a trovare, dopo tante... problemi? No. Siamo riusciti finalmente a trovare, dopo tante fatiche, un autentico giovane testimone di fede. Il signor? Filangeri Giuseppe. Signor Filangeri, lei è un testimone di fede? Sì, vado in chiesa, sì. Filangeri, adesso ci racconterà una storia davvero tragica, per fortuna finita bene. È il giorno del 41esimo compleanno del signor Giuseppe. Ma no, veramente c'ho 31 anni c'è, veramente. Filangeri? Avviciniamoci e raccontiamo al microfono la sua vera storia. Lei nasce 47 anni fa. Ma io c'ho 31 anni. In un quartiere povero. 25 figli. Non ho figli. Lei era figlio. Lei era il 25esimo figlio. No, noi siamo 7. La famiglia Filangeri è una famiglia povera, ma onesta. Filangeri è il 25esimo bambino che viene a benedire questa famiglia, povera ma felice. Eppure, malgrado tutto, Filangeri viene su male. Brutte compagnie, cattive esperienze. E come se non bastasse, Filangeri è soggetto a crisi epilettiche. No, veramente no questo. La mamma improvvisa più volte insieme agli altri 24 bambini lunghe spedizioni sul Monte Pellegrino. Tutti sperano che Giuseppe possa guarire dalle crisi epilettiche. Non c'è noi che sei epilettiche. Alla fine Filangeri guarisce, ma gli salta fuori un'altra malattia. All'età di 16 anni comincia a sentire irresistibilmente il desiderio di stuprare vecchiette. No, non è vero. A quel punto la mamma improvvisa un'altra spedizione sul Monte Pellegrino. Nel frattempo sono nati altri bambini e la carovana è costituita da 35 persone. Questa volta il viaggio è infruttuoso. Angeli, lei crede in Santa Rosalia? Sì, ci credo. Ci credo, sì. Boys wear overcoats in the heat like this to keep themselves from shame. Girls fill out prescriptions for the tricks to keep their hearts from growing. Specialists review the gear in tears and call for drastic measures. Send them to resorts for boys and girls to get their wits together. Stop and chew the plaques of life abound. Side. the rates are better in the summer. The rates are better in the summer. Looks like old Jenny's doing better. The rates are better in the summer. Back at home, the broadcast morning bounces off an empty table. Jenny asks the astronauts to sleep with her behind the stable. Christmas hasn't been the same since Dad put in the central heating. Jackson, before that time, is a battery. She can feel her doing it. And the world might turn a million times around before they tell you, Jenny, anyway. The world is happy, world is happy, world is happy, world is happy. Sometimes they let strangers in, and other times they check the ringer. They check out in the morning. Dad puts out the lie detectors. Jenny prays to God she's never heard of for a special one. And all the walls stay dead as Jenny's head is, but she's still observing. Signore e signori, ci avete cacato la minchia. È passato un quarto di secolo dalla morte di Pierpaolo Pasolini. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. Ma chi è Pasolini per i giovani d'oggi? Lo chiediamo a Saverio D'Amico, giovane talento del cinema siciliano, nonché prezioso collaboratore della mitica agenzia di spettacoli di Enzo Castagna. Saverio, che ricordo hai di Pierpaolo Pasolini? Più che ricordo di quello che ho letto, di quello che mi sono aggiornato soprattutto su Pierpaolo Pasolini, che lui era uno dei grandi registi, oltre quando pure che lui era tutto nell'altra sponda, come si vuol dire, no? Dico dell'altra sponda per non dire proprio la frase. Saverio, scusami, l'altra sponda in che senso? Cioè, allora, in dialetto palermitano lo definivano un frocio, un transessuale, niente, che lui comunque, oltre fuori dal cinema, anche dentro il circuito cinematografico, lui, oltre alla sua bravura, però sempre aveva l'occhio bionico, come io lo posso definire, nel senso che quando vedeva qualche ragazzo, qualche persona che a lui gli attirava, cercava di far che, di far succedere un inciucio tra se stesso con questa persona. Bravo, metti a rosso! Bella maggio, bella maggio! Sono tenuto, sono meno tutti i pensate che mangiare, Romano vieni e ti atto fuori, attia con tutta questa monnezza che c'è. Ma signor Quartararo, abbiamo avuto un lutto noi qua. Ma chi dovrà che ho fa morendo? Vedo so come mi si reggia. Con il tuo palazzo è scherzato il tuo palazzo. E ti ha besato con lo giotto. Saverio, poco fa tu facevi riferimento alla diversità di Pasolini. Tu sicuramente saprai che qui, con parola dispregiativa, per designare un omosessuale si dice arruso. Ecco, Saverio, ma tu non pensi che ci sia da distinguere tra l'arruso e il regista? Oddio, l'arruso, come noi tutti in lingua nazionale ne parliamo, che la pronunciamo frocio, è normale arruso, è una cosa un po', capito, palermitanesca, non un po', è tutta palermitanesca, cioè che noi abbiamo visto il palermitano sia arroso, cioè, e questa è la frase già del palermitano, in italiano diciamo sei un frocio, allora è tutto diverso, però la diversità tra arruso e regista, che regista è un regista, un arruso è un arruso, cioè, però suo personaggio Pasolini, quello che aveva lui in comune, aveva tutte e due cose, perché era un buon regista e un buon arruso, come dicono, scusate il sorriso mio, però è una cultura che io, a me non piace, e poi ognuno la pensa a suo modo, però quello che io a mio modo posso pensarla, che la diversità era un peccato, perché era un buon regista, come mentalità essere un arruso perdeva anche di punteggio. Arruso, ma qual è il significato di questa misteriosa parola dal suono così giovane e stridente? Amore, non sono stato mai così felice. Una merda come me non meritava tanta felicità. Hai portato la luce nella mia vita. Taci, non parlare così. Mi fai male. Tu sei un angelo meraviglioso. L'uomo che vedete inquadrato si chiama Paolo Alaimo. Ha 50 anni. Alaimo. Dica. Senta, nel quartiere Politeama, dove lei abita e che lei frequenta, si dice che 30 anni fa lei fosse un amante di Pasolini. Sì. È vero? No. Alaimo, ma mi dica la verità. Si faccia un esame di coscienza. Ma lei non fu davvero per qualche giorno amante di Pasolini? Mai conosciuto. Potrebbe giurarlo? Mai incontrato. Certo, davanti a Dio, sempre, sempre. Alaimo. Dica. Ma lei lo sa che a Piazza Politeama, per questa storiella che lei sarebbe stato l'amante di Pasolini, la definiscono arruso? Vabbè, la definiscono arruso perché la parola è nata arrusa. Allora, cosa subentra? Quando la parola è nata così, arrusa, allora loro, le persone, o per meglio dire, queste persone o quelle persone, la chiamano il verbo detto in italiano, di qua, arruso. Perché la parola è arruso nella nostra dialettica, nella nostra zona. Alaimo, dica. Ma lei c'è o non c'è arruso? Io non ci sono mai stato, almeno prima d'ora non ci sono mai stato e non lo sono tuttora. Perché è un superdotato come me, che io sono una persona di molto talento, ho molto giudizio. Lei è su? È un, cioè, pure un belluccellone, per meglio dire, io penso che per me è una cosa che non ha senso questa parola arruso, perché io c'ho un caso di sta parte abbastanza elevato, enorme, e ne posso prestare agli altri del mio cielo, perché giustamente lo stantufo c'è, quindi per cui... Che cosa c'è? Lo stantufo, la roba c'è ed è materiale, sostanziosa, quindi per cui non vedo il motivo perché io devo essere arruso, che mi piacciono le donne e mi sono sempre piaciute. Manco tu picciolo del nano. Andiamo a fare una cosa. Io ti faccio tutta una via e tu non fai a me. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frowns. Soon will be president. Try the power of suit away. I will be here one day. I will command all of you. You think you're meditating in school? You think you're meditating in school? California, over Alice. Natural, you will draw for the master race and always wear the happy face. Close your eyes, that happened here. Paper on, why was this here? And if these folks come back, you say, they're allowed. Paletta! Paletta! Dopo 50 anni la vecchia Belgrado. No, veramente non me ne intendo proprio di essere una vecchia. Sono un giovane ancora maturo per poter avere moglie, figli. Perciò non mi sento di essere un cattivo come dice lei, un pervertito. No, Baldracca. Baldracca, no, non me ne intendo proprio di questo nomignolo che dice lei. Baldracca. Ma Baldracca. Ma non capisco la domanda. Baldracca. Baldracca. Ma me lo spiega lei che significa Baldracca. Io veramente sconosco questo motivo. Lei è una vecchia Baldracca. Ma Baldracca. E non c'ho nessuna storia nella geografia di capire Baldracca. Baldracca. Ma può darsi che lei dice Baracca, Francesco Baracca, quello degli apparecchi. No, Baldracca. Ma non lo capisco. You can tell from the full body cast that you're sorry that you asked that you did everything you could like it. any decent person with what I might be catching, so don't touch. Don't believe that you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come off. You can tell from the smell at the state that the currency is critical. Is the little thing science says? The time it takes to break the chicken make up 10 excuses. 6 years are for the day, it's just the way the medication makes her. Necessarily believe there is a cure for this. I might join your century, but only as a devil. Yes, I'm just too precarious. Your nature is necessary. You I'm the girl. Stavamo febbrilmente sfogliando i giornali alla ricerca di notizie su Paris Hilton, perché era tantissimo tempo che qui noi italiani e anche all'estero non sentivamo parlare di Paris Hilton e francamente ne sentivamo un sacco la mancanza, ma finalmente abbiamo trovato qualcosa. Vai Lillo. Qui c'è una gran bella notizia che commenteremo col grande Gabe Stigazzi, nostro opinionista ufficiale. Vai. Leggo il titolo, sì. Gli occhi di Paris, una bufala, lenti a contatto su misura per la Hilton, gli occhi blu di Paris Hilton sono una bufala, secondo quanto riporta un magazine. Sì. L'ereditiera indosserebbe delle lenti a contatto colorate fatte rigorosamente su misura del valore di $150 l'una. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia che riguarda Paris Hilton? Sul fatto che lei ha lenti Paris Hilton, ha lenti a contatto. Sì. Sì. E Stigazzi pensa che tante persone mettono queste lenti di colore diverso di suoi occhi. Sì, però... che non mancazzo, ma quando mancazzo per cazzo, cazzo si per cazzo, cazzo. Però pure lei parla del cazzo per cazzo, cazzo si per cazzo, ma la vedi che cazzo vada me! Persona. E sti cazzi? Chi ha detto? Ha detto che è commosso. You can't lie.

Vendete video per caso? Sì, che c'è? Piccolo Pippo, cucciolo eroico. Un secondo, sto giusto parlando col fornitore. Faccio controllare il titolo. Faccia pure. Come hai detto che si chiama? Piccolo Pippo, cucciolo eroico. Piccolo Pippo, cucciolo eroico. Leva pazza. Capisco. Ah sì, salve, qui la RST Video. Cliente numero 4352. Vorrei fare un'ordinazione. Ok, mi servirebbe una copia dei seguenti titoli. Allora, vibratori al vento, prepuzzi in cappella, sborra di fuoco, sbattimelo ovunque, sbattilo lì, puliscimi le tubature, tette solenni parte 2, il tuo cazzo è mio, io sono sua, culi calati, sbore shon, giochi di mano, giochi di puttano, gargarismi indecenti, aurora sborealis con enormi cazzi ad Harlem, poi bramose di cazzo, bramose di fica, uomini soli due, poi c'è vaselina connection, sì, ah, e poi fregne pregne di cazzi duri. Piccolo Pippo, il culo cucciolo eroico. Un minuto solo, qual era il titolo? E vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Tu dici vengo e invece tu pisci. Ma vaffanzum, ma vaffanzum, chi chiama tromba, chi tromba chiama, se si chiama. We'll be right back. be sent for me. Dazzled by your beauty, still you know. Plated or anodized, you even fool a layman's eyes. Presentable though you might be, it's unwise to try to fight me. Perciò tenete per carbonaro, perché io me ne vado. Dove vai? A Parigi. Mamma, un uomo come me è sprecato qui a Roma. Ma se non sai fare niente, tu non hai mai fatto niente in vita tua. E te pare niente? Queste sono qualità che a Parigi l'apprezzano, sai. Savoir-faire è un termine che l'ha inventato e che non ha mai fatto niente come tutti noi. Sa se parima? Tiè, dice non so fa niente. Pensando a Piero Manzoni, pittore milanese ma geniale, 1933-1963, merda d'artista. Oggi l'arte nemmeno quello, la merda ha un'essenza, ha una sua consistenza. L'arte ingenerosa, la cacca è coraggiosa, perché si offre sempre mentre l'arte si vende. La cacca è sempre utile, l'arte del tutto futile, una truffa, un inganno, è sempre in affanno. La merda è presenza, l'arte è evanescenza, lo sterco si basta, l'arte cerca conquista. questa cacca che spiazza. Senti quanto puzza la merda d'artista. Si vende una bellezza questa cacca che spiazza. Senti quanto puzza la merda d'artista. Si vende una bellezza questa cacca che spiazza. Ed è pensando a Piero Ciampi, non so, il primo che mi è venuto in mente, che chiudiamo questa trasmissione che ci ha visti presenti in prima linea nel portare avanti il verbo che era in principio, poi non fu. Laboratori! Morning, Gaza. I am Hatem Shurab, an aid worker. Ancora sangue nella striscia di Gaza. Giocare col mondo. Costringe a fare per la libertà, forse ne sapremo quello che vuol dire affogare nel sangue con l'umanità. Gente scolorata, quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non vuole morire. Senza dei problemi, cerca nelle cose l'essenzialità. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità. أشد على يديكم أنا ما حنت في وطني ولا سبب أكتافي وكفت وجهي دلاني يتيما عاريا حفيا ناديكم شد عالم Thank you. talking about it.